132. Salsa con capperi per pesce lesso. Burro grammi 50, capperi spremuti dall'aceto grammi 50, farina un cucchiaino colmo, sale, pepe e aceto. Questa dose basta per un pesce di circa grammi 500. Il burro, come sostanza grassa, è già per sé stesso un condimento non confacente a tutti gli stomachi, specialmente quando è soffritto. Quando poi si unisce agli acidi, come in questo e in altri casi consimili, si rende spesso ribelle agli stomachi che non siano a tutta prova. Cuocete il pesce e mentre lo lasciate in caldo nel suo brodo, preparate la salsa. Ponete al fuoco la farina con la metà del burro, mescolate e quando comincia a prender colore, aggiungete il burro rimasto, lasciate bollire un poco e poi versate un ramaiuolo di brodo del pesce. Condite abbondantemente con sale e pepe e ritirate la cazzaruola dal fuoco. Gettateci allora i capperi, metà interi e metà tritati, più un gocciolo d'aceto. Ma assaggiate per dosare la salsa in modo che riesca di buon gusto e della densità di una crema liquida. Collocate il pesce asciutto e caldo entro a un vassoio, versategli sopra la salsa, calda anch'essa, contornatelo di prezzemolo intero e servitelo.